Effetto Mondo. I think I'm pretty outspoken, and that's not probably a good thing in terms of a politician, but it's a good thing if you ever got elected, you can really do a job. E allora Giulia, buongiorno. Ho trovato. Cosa sei andata a scovarci? Questo è Donald Trump, che come avrete sentito, insomma, non è la voce a cui siamo abituati, perché questo è Donald Trump 30 anni fa. Giovane. Intervistato quando era ancora noto, soprattutto per essere un grande immobiliarista. Nelle orme del padre, che era stato uno dei più grandi immobiliaristi di New York. E in questa intervista diceva: io sono una persona molto outspoken, cioè dico quello che penso, che sicuramente per un politico non è forse la dote migliore, però se un politico è così outspoken, in realtà riesce a fare bene il suo lavoro, quindi è abbastanza profetico. Perché questa voce? Perché viene da un mini documentario di 18 minuti con la voce narrante di Julianne Moore, l'attrice, che cerca un po', devo dire, con molta obiettività, molta più di quella che ho visto nel documentario trasmesso in parte ieri dalla 7, che si chiama Unfit, che negli Stati Uniti è uscito all'inizio di settembre. Qui c'è proprio un collage di interviste d'epoca per idealmente dare un ritratto vero della lunga vita, ormai, perché ha 74 anni, di Donald Trump alla vigilia di queste elezioni, visto che sappiamo lui racconta molto di sé, però naturalmente cerca di costruire un personaggio che forse non corrisponde esattamente alla realtà. Intanto la BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse, lo dico perché è una notizia che era attesa, ma insomma è uscita pochi secondi fa. Che altri titoli sui giornali di oggi, Giulia? Beh, continuano a battere questi record sul numero di votanti. Siamo arrivati a 75 milioni, che è praticamente un terzo di tutti i registered voters, cioè tutti quelli gli aventi diritto. Vedremo appunto se poi questo si aggiungerà, se tutti questi voti fatti in anticipo verranno poi, in realtà diminuiranno il numero di persone che vanno a votare fisicamente il 3 di novembre. Molto importante, New York Times, Washington Post, tutti lo mettono in prima pagina, la decisione della Corte Suprema di ieri, dalla quale si è astenuta la nuova giudice Amy Coney Barrett. Non ha spiegato perché, ma naturalmente molti commentatori dicono perché questo è un classico conflitto di interessi. La Corte Suprema ha sancito che North Carolina e Pennsylvania avranno 9 giorni in più per contare i voti postali o il resto del early voting, quindi dopo il 3 di novembre. C'era stato un ricorso e ovviamente Donald Trump era molto contrario, è tuttora molto contrario a qualsiasi cosa che ritardi la proclamazione del vincitore, e quindi è un'altra notizia importante in questo scenario complesso del sistema elettorale americano. Quindi diciamo 3 giorni in più, perché adesso leggo un'agenzia che precisa, si potranno continuare a conteggiare i voti per posta fino a 3 giorni dopo l'election day. Quindi, esatto, scusami, sì, non 9 giorni ma 3 giorni. Forse è una precisazione successiva rispetto a quello avevi tu. E quindi questo cosa vuol dire? Che fino a almeno 3 giorni dopo il voto non avremo comunque un responso definitivo. Sì, sicuramente per quanto riguarda quei due stati. Il problema è naturalmente che se i voti conteggiati fino a quel momento danno un vantaggio enorme di uno dei due candidati, allora va bene. Però sai, si potrebbe sempre dire va bene, però i voti che mancano potrebbero comunque fare la differenza. Per come sappiamo è complesso poi la complementarietà tra voto popolare e poi gli electoral votes, i voti quelli che noi chiamiamo grandi elettori, ma non pensiate che sono associati a persone, perché non è così, sono semplicemente un numero simbolico di voti che rappresentano il numero di senatori e deputati che ogni stato manda al congresso. Qui insomma senza mancare maggioranze diciamo schiaccianti si ballerà per qualche giorno, come è successo in passato già. Però devo dire, voto. Per il primo giorno da parecchi giorni, il Wall Street Journal e peraltro Financial Times fa la stessa scelta, mettono in prima pagina in realtà l'audizione che c'è stata ieri al congresso dell'amministratore legato di Twitter, Jack Dorsey, che tra l'altro si è fatto crescere una barba un po' da guru, ma lui è un personaggio un po' così da vita alternativa. attiva. Poi però c'erano anche Zuckerberg di Facebook e l'amministratore delegato di Alphabet, cioè Google, e questa audizione è servita e tutti e tre dovranno mettere in campo nuove misure per dare delle regole, anche se naturalmente c'è chi dice ma queste regole dovrebbe farle il Parlamento dei singoli stati, per dare delle regole sui comportamenti all'interno dei social network. Quindi insomma è un tema, anche lì sappiamo, lo si può vedere o come una censura oppure come un'eccessiva libertà che diffonde notizie sbagliate. Allora, la corsa al vaccino, con annunci soprattutto da parte di politici, sta diventando abbastanza, insomma, importante. Londra che dice a questo punto? Sì, sappiamo che insomma Moderna, che è la Big Pharma che ha un po' smentito Donald Trump, perché lui aveva detto ho parlato con i vertici di Moderna e avremo il vaccino molto presto. Moderna ha poi risposto con grande cautela. Vediamo se succederà lo stesso con Pfizer, perché ieri invece Boris Johnson ha detto che nel Regno Unito, grazie a un accordo con il colosso Pfizer, che a sua volta sta mettendo a punto un vaccino, ci saranno 20 milioni di dosi di questo vaccino praticamente a Natale. Naturalmente questo arriva in un momento in cui il Regno Unito, a differenza di Francia e Germania, è nella stessa grave situazione di crescita dei contagi, ma non ha deciso per un lockdown, anche se più morbido, sappiamo, di quelli della primavera, come invece hanno fatto appunto Angela Merkel e Macron. Qualche altro, abbiamo ancora un paio di minuti, forse anche di più, qualche altro titolo? Sì, come dicevamo ieri, la tragedia nella Manica con la nave che è affondata, e adesso sì. Si sa qualcosa di più, e di nuovo tutti i giornali hanno le foto in prima pagina di queste. Sono due famiglie decimate da questo naufragio, c'erano come sappiamo due bambini, e adesso si sa che erano persone che arrivavano dall'Iran, curdi iraniani, che cercavano naturalmente di scappare verso dal loro paese, dove erano perseguitati, verso il Regno Unito. Ripeto, fa molto effetto, perché anche se poi il ministro degli interni e molte organizzazioni umanitarie su tutti i giornali oggi hanno detto guardate che incidenti di questo tipo ce ne saranno ancora tanti, perché comunque ai migranti, che ci sia o no la Brexit, che ci siano o no altri problemi geopolitici, se scappano in questo caso dall'Iran ma anche da tanti altri paesi, ci proveranno lo stesso. Quindi sicuramente non basterà così i proclami del Ministero degli Interni del Regno Unito o di quelli dei paesi europei per fermare queste persone che scappano dalla disperazione. I giornali di Francia e Germania, Giulia, come accolgono le notizie, insomma, delle chiusure annunciate dai leader in queste ore? Guarda, la copertina più bella è quella della Tagesspiegel, che ha questa l'immagine, non so dove sia stata scattata, di quelle onde gigantesche, un'onda enorme, perché appunto la Merkel ha parlato anche di questa grande diga che vuole che lei spera sia questo nuovo lockdown. Naturalmente è un po' come se si fosse tutti se lo aspettavano, e quindi adesso cercheranno tutti di attenersi alle regole. Giornali che le spiegano dettagliatamente, la Bild spara in prima pagina che sono già pronte migliaia di poliziotti per controllare che tutte le regole vengano rispettate. E invece fronte francese, ancora qualche secondo? In Francia invece mi ha fatto impressione la copertina di Le Figaro, si vede, è la foto scattata in una casa vista dall'esterno, dove le persone stanno guardando la televisione Macron, e il titolo è Reconfiné con il punto esclamativo. Anche qui è chiaro a tutti che non è una scelta, non c'erano alternative in una situazione come quella della Francia, soprattutto, come diceva anche Isabella Bufacchi, perché quello che si deve guardare in prospettiva è la tenuta dei servizi sanitari, degli ospedali, soprattutto di quelli pubblici, perché sappiamo che i privati si sono un po' defilati in questa emergenza. E la Francia ha una situazione molto importante come occupazione dei posti letto negli ospedali, sono abbastanza avanti. Grazie a Giulia Crivelli, noi ci risentiamo domani, oggi con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Ciao, buona giornata.